sia per gentili e l'altro per non valorizzare solo la parte esterna, ma anche proprio l'entrata della scuola, di fronte alla porta o a lato, sempre con materiali di riutilizzo trovati in giro che si possono comunque, si può comunque unendoli ottenere un'immagine, mettere come una scultura di un ragazzo più o meno della nostra età con tanti piccoli accorgimenti come un pennello, che ne so, lo zaino sulla spalla e una lavagna davanti dove praticamente un ragazzo può entrare la mattina, lasciare un messaggio, una frase che potrebbe piacere a qualcuno, per esempio. E comunque trovo che sia bello entrare, magari si vedere una frase, un pensiero. Condividere i propri pensieri, esatto, no? Mi sembra. Esatto. Pensieri sempre positivi. No, cioè, no, non per forza, perché deve essere... Anche un insulto. Cioè, no, mi è venuta questa idea partendo dal presupposto di un ragazzo, di avvertire i ragazzi con un messaggio che può essere implementato nell'opera, che dove stanno entrando ci sono tante risorse, ma solo se loro sono pronti ad accettarle, perché comunque non ci possiamo trovare in un ambiente lavorativo dove non veniamo come giovani del tutto soddisfatti a molte volte, o a volte estremamente soddisfatti, ma è tutto estremamente soggettivo, quindi sarebbe bello vedere un insieme di idee. Uno sfogo di idee costruttive. Sì, sì. Non è uno sfogo e basta. No, non uno sfogo che deve essere costruttive, comunque. O pensieri che non devono andare nell'insulto. Perché nell'altro. Un giorno, perché poi il giorno dopo si può cancellare. Sì, e sì, c'è poco. Tutto lì. Okay. E basta. Bravo. Grazie molte. Il logo.